sei per me. I capelli che hai e gli occhi che hai, la voce che hai, musica sempre qui con me. Tu sei sempre nella mia fantasia. Sto con lei, è impossibile. Sempre di più, e lo sai.